saber que la cumbia es el futuro. Así que... Pusimos toda música tropical bajo un techo y le pusimos salsa. La esquina del sol. Parole música de la América Latina. Los paramilitares desaparecieron a mis dos hijos en el 2 de febrero del año 2003. Y hasta la presente no sé dónde estarán. Las madres de Plaza de Mayo tomaron la Catedral Metropolitana para ayunar en protesta por la falta de entrega de fondos estatales destinados a sus proyectos de viviendas populares en la capital argentina. La esquina del sol, tu pinche bebé, dale 17, su importante 7 y 9 de Radio Onda Rossa. Ahora, resulta que no es sabe, apaguizando vida y calidad. Pueblo se tiene que unir para luchar para que la crisis no la pague el pueblo. Nosotros queríamos la mitad del poder, no lo queríamos todo. Tutti giovedì dalle 17 sugli 87.9 gradi Andaluzzi. E quindi, come vuole la tradizione, quando non sono mai le 17, ma sempre almeno oltre le 17.05, perché così è. Le regole sono fatte, per quanto ci riguarda, per essere distrutte. Non mi sento per niente gli occhi puntati addosso. No. Poco come quando vi racconto che mi mettono da sola in piedi in mezzo a un palco dall'alto del mio metro e mezzo. Carrozza. Insomma, giovedì prossimo avete una settimana per abituarvi all'idea, succederà qualcosa di grande, almeno per quanto mi riguarda, visto che insomma le ansie da prestazione hanno diverse forme. Ma insomma, che il fronte cumbiero romano debba così scontrarsi con The Original One, ovvero quello colombiano, nonché sotto l'egida, lo sguardo l'onda tropica sound system del grande Mario Toro, quella mente creativa a 360 gradi che insomma all'epoca di oggi si fa chiamare Quantic. Quindi insomma tutti quelli che qualcuno ha chiamato tormentoni, vabbè, ma solo perché sono una persona paziente, ma che sono una sintesi pazzesca di quello che può essere la cumbia presa, rimodernata, però dando tutto il valore di quello che è la cumbia originale. Insomma, non sono in tanti a riuscire a fare certi miracoli, a mettere insieme certi personaggi. E allora io quello che vi consiglio è di andarvi a vedere qualche video di quello che lui ha fatto per prepararvi alla giornata di giovedì prossimo. E quindi diciamo che vi do una mano. Questo in particolare è Quantic, il suo combo barbaro. Barbaro si dice in Sud America quando è una cosa è barbaramente fighissima. Non c'ha niente a che fare con i nostri barbari. Un canto a mi tierra, eh sì, perché è anche un po' mi tierra quella di Colombia, lo sapete, un pezzetto l'ho lasciato lì. E allora lo vorrei proprio dedicare a quei centri ubitali del Putumayo che stanno vivendo delle bruttissime ore dopo che dopo tanta acqua, tanta montagna è venuta giù. E insomma, non è che le cose succedono a caso, eh? Se la montagna si sente amata da esseri che vivono su di essa, è difficile che queste cose accadano da sole. E infatti il Putumayo sicuramente è una di quelle zone che tra l'altro insomma una grande montagna che tocca, mi pare, se non altro tre stati quantomeno, tutti un po' ne approfittano del suo silenzio, della sua bellezza. Una montagna che viene deforestata, delle terre che vengono abbastanza brutalizzate per lo sfruttamento, e questo fa sì che, come succede qua da noi, la deforestazione crea poi disastri. io spero prima o poi di riuscirla a chiamare, ma insomma c'è un compagno che era lì che lavorava proprio con gli sciamani dei centri abitati di quelle zone, che giusto 2 mesi fa gli hanno detto: guardate che la montagna è arrabbiata, forse è meglio che voi andiate via. E allora, quando noi parliamo, sì, nelle ultime puntate, penso a quando parlavamo delle autorità spirituali dei Mapuche, di cui ci siamo occupati ultimamente, non c'è niente di diverso. Ogni civiltà ancestrale ha un legame con la terra che noi neanche ci possiamo immaginare, perché è il suo mitico equilibrio che poi fa stare tutti bene. Certo, poi c'è l'anno della siccità, l'anno della pioggia, ma insomma mai la montagna decide di uccidere 300 persone così, nel sonno, da sola. L'uomo riesce sempre a dargli una grande mano, e allora anche di questo dobbiamo fare tesoro. E allora, per farla sentire da capo, un canto a mi tierra. Uepa, che lindo è cantare a mi tierra. Yeah. Vabbè, insomma, poi certi saluti che fai non li fai quando ci sta qualcuno che poverino ciabattando balla la cumbia nei corridoi del Policlinico Umberto I, mannaggia, ma se può. Però ecco, insomma, speriamo di portarti sollievo, saluti sicuramente e un abbraccio, visto che sei, insomma, uno dei meglio cumbieri della scena, no? Per quanto mi riguarda, di quelli che più ci danno soddisfazioni. Allora un abbraccio, dale che sale pronto, hermano. Buonissimo! Me has olvidado, me has engañado. Hoy que me encuentro aquí entre rejas, cuando me cuentan tus aventuras con otros hombres allí en mi hogar, yo no lo creo ni lo creeré. Me es imposible que eso sea cierto. Si tú lo has hecho, mejor te va, porque si salgo te va a pesar. Si has engañado a otros hombres, de mí no te burlará. Si el mono sabe que para los tres pas te equivocaste, de palo Petra ya voy. Quíndeme del palo a Petra, pa' que no seas sinvergüenza. Quíndeme del palo a Petra, pa' que no seas sinvergüenza. Cuando yo me enamoré de ti, yo no pensaba que las asesinaré. Quíndeme del palo a Petra, pa' que no seas sinvergüenza. Eres tan fea y coqueta, vacila más que mi orquesta, nene. Quíndeme del palo a Petra, pa' que no seas sinvergüenza. Insomma, strumenti elementari, un po' di idee per fare dei testi. Rico. E poi quando c'è l'amore di mezzo, ci sono poche variazioni da fare, più o meno. Siamo sempre lì. Lisandro Messa, in questo caso, col suo bel cappellone classico colombiano. Me has olvidado, me has engañado. Hoy que me encuentro aquí entre rejas, cuando me cuentan tus aventuras con otros hombres allí en mi hogar, yo no lo creo ni lo creeré. Me es imposible que eso sea cierto. Si tú lo has hecho, mejor te vas, porque si salgo te va a pesar. Si has engañado a otros hombres, de mí no te burlará. Si el mono sabe que palo trepa, te equivocaste, de palo Petra ya voy. Quíndeme del palo a Petra, pa' que no seas sinvergüenza. Quíndeme del palo a Petra, pa' que no seas sinvergüenza. Cuando yo me enamoré de ti, yo no pensaba que eras así, mamá. Quíndeme del palo a Petra, pa' que no seas sinvergüenza. Eres tan fea y coqueta, vacila más que mi orquesta, nene. Quíndeme del palo a Petra, pa' que no seas sinvergüenza. La salsa en Cartagena se baila en el barrio Bras del Eso, el Paraguay. Daniel Demetre. Mi provocano molto, no? Perché voi lo sapete, ogni tanto c'è sta un messicano che abita qua nel quartiere, che viene, si impiccia, mette bocca sulle mie trasmissioni. Giustamente mi sta ponendo delle questioni di un certo spessore. Ma perché vieni da nuova colonizzatrice, vieni, ti rubi la cumbia e te la porti? Che lui non conosce il nostro orgoglio di essere ladri delle cose belle. No, però dai, io lo faccio con umiltà, no? Me lo merito di sentire la cumbia. No, no, no, scherzo, adesso stiamo giocando. A bailarmi cumbia. Però che te devo dire? Me imbrucò. Tra l'altro, ragazzi, contate i giorni perché sta tornando anche il pelon della cumbia, ovvero il grande son del barrio. Ne vedremo delle belle. So che a giorni ripasserà anche la terrorista del Savoir, quindi puro terrorismo, eh? Apuren bailadores, cumbia, traigan velas y rones, cumbia, que la cumbia prendida, cumbia, a bailar nos convida, cumbia, y que siga la cumbia andando, que quiero amanecer bailando. Es mi Colombia, cumbia, y su cumbia es historia, cumbia, que al cantarla yo siento, cumbia, que me pongo contento, cumbia, y la llevo en mi sangre pura, soy Caribe como la cumbia. En la América entera, cumbia, mi cumbia es un portento, cumbia. En la América entera, cumbia, mi cumbia es un portento, cumbia, porque ya no tiene frontera, es tan libre como los vientos. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Y eso es lo que le digo a mi compadre Lucho. Ay. Allora, oggi una trasmissione quantomeno confusa, improvvisata. Poi qui, ecco, diciamo, lo sapete, io sono molto radiofonica, quindi oggi proprio mi stanno a mettere in difficoltà, no, un po' scherzo, un po' no, effettivamente. Però diciamo che se voi avete una cumbia, riga, che sia una cumbia, non chiamatemi per chiedere comunisti della capitale, che va benissimo, ma fuori da questa ora, no? Se può per un'oretta scordarsi, però sentire altro, la richiesta, eh? Da essere una cumbia... cumbia, no? Quindi avrete in 7 anni, 8 che faccio questo programma imparato una cumbia? Vi piace? Vi siete innamorati? Telefonate al 49 17 50 e chiedetela alla Esquina del Soul. Vedi? Mi fanno confondere, Emanuele, sei te questo, eh? No, poi lo sai che io dico sempre che ci sta un fantasma qua che un po' me boicotta questa trasmissione. Computer vecchio. No, ma che colpi? No, no, il computer è notizia, è nuovissimo. Vabbè, noi intanto per non saper non, né piangere né ridere. Insomma, Lucio Bermudez, vogliamo parlare di queste grandi orchestre della cumbia, no? Anche, non solo la cumbia, quella della Senaida, quella del popolo, quella cantata per strada con i pezzi di legno, quell'accordeon tutto un po' scocciato che si trova, ma anche le grandi orchestre della cumbia. Beh, Lucio Bermudez aveva una signora orchestra, una, insomma, delle signore voci, e lui dirigeva proprio come se fossero un po', non so, Minnie the Moocher, no? Avete presente il film dei Blues Brothers? E quelli loro però cantavano la cumbia. Quindi, come vedete, la cumbia proprio attraversa un po' le classi, i colori, le razze, i paesi. E anche, devo dire, i decenni. Credo che fossero quantomeno gli anni 50, quando Lucio Bermudez dava il meglio di sé con la sua orchestra. E quindi diciamo che dopo questa facciamo un po' un salto in qualcosa di più moderno, eh? Che dici? È l'ora. Si puedes, sin olvidaré que tu Attenzione, eh. Questo è un vero mischione, eh? Così abbiamo fatto mezz'ora di classico e facciamo mezz'ora di moderno. Ma apre la porta tanto sola. Despiértate. Mira mi nena que llegó la hora de despedirme. Lamento tener que dejarte sola. Llega la noche. Cuidado por ahí, bella señora. Cuando la verdad aparece, la mentira vence. Cuando un amigo te responde, va contigo hasta la muerte. Perro que ladra no muerde. Si la perra tiene rabia, cuando el mulo dice no, no hay palo que lo adelanta. Chiquito pero sabroso, gozo con el dedo mucho, mucho abaca, poco aprieta. Dos caras y una careta. Castigada por los dioses, María tenía una cara por la noche y una cara por el día. Tenía dos caras, dos caras, dos caras. Tenía dos caras, dos caras, dos caras. Tenía dos caras, dos caras, dos caras. Tenía dos caras, dos caras, dos caras. Ella tenía dos caras. Y para la danza, ajú. Y mejor tenga cuidado cuando su mirada evada. Nadie creía lo que de ella se hablaba. Hasta que en carne propia uno mismo lo traicionaba. Sea buena gente, bandido, policía. No tiene miramientos, la plata es su mesías. Hoy va a ser uno de esos días. El grande ya está arriba, solo espera su salida. Dos caras, dos miradas, un destino. Mala jugada y todo pende de un hilo. Dos caras, no hay miradas, lo tuyo es mío. Ahora imagina cuántos más han padecido. Ellos buscan el poder y te quieren convencer. Pero el día de mañana nada va a retroceder. Te tienes que proteger, ya está por amanecer. Y te digo esta mujer. Tenía dos caras, dos caras, dos caras. Tenía dos caras, dos caras, dos caras. Tenía dos caras, dos caras, dos caras. Tenía dos caras, dos caras, dos caras. Ya tenía dos caras, dos caras, dos caras. Mamá abre la puerta estando sola. Insomma, che dire al mitico Celso Piña ad accompagnare la voce e il bellissimo corpo della Dame Blanche, anche detta la Dama de Blanco, a seconda che vogliate vedere il suo lato cubano o quello francese, insieme a Zeko T, che è un'altra bellissima voce rappettara. Allora, noi invece teniamo moderno e tradizione. Senti un po' che robetta, eh? Questa è la Orrorosa, mitico gruppo. Yeah. un po' come dire che la Zenaida è un po' proprio è la cumbia, no? Questo, proprio questa donna che esce, va a faticare, si porta questo cesto di frutti maturi, va a vendere al mercato mentre si gira la sua sigaretta, il suo sigaro, insomma. Quindi la fatica, la pazienza, ma anche i colori, la bellezza, il sapore della tua frutta mi sa di cumbia, eh? Quale cosa più bella in questo mondo, eh? Allora, visto che richieste non ne fate, ma vi capisco, voi subite la cumbia e basta, dovete reagire, cominciare ad appropriarvene. Io qui invece oggi approfitto del mitico Sandunga, io ti chiamo così, va bene? Ormai sei Sandunga, hai voluto. E allora, vediamo che ci selecta, va? Que dicen, me preocupan los matices. Vivo ahora, no después. En mi vena la raíz artífice de mis actos, aunque dejen cicatrices. Solo hay una vida, me importa ser felices. Y dentro de sí lo que siento hablando, como puedo recopilo instantes. Quiero ser sincero, dicen que no voy a poder. Que mi lugar es esclavo de un sistema que solo piensa en él. Que con esto no llego a fin de mes. Que pierdo el tiempo y no para mi sed. La dicha es poca, no todos pueden ver. Al fin de cuentas, esta es mi forma de ser. Me dicen que olvide mis sueños, que abandone mis anhelos y que deje todo atrás. Pero voy derecho, voy siguiendo a mi lunita. Vamos todos a saltar. Solamente fluye y déjate llevar. Hacemos esas manos y unidos somos más. Sonido Satanás, todo chido y sin parar. Llevamos el ambiente a cualquier lugar. De la calle pa' la gente son fusiones no dementes. Tenemos ese feeling de las fiestas diferentes. Al ocaso de la noche le prendemos fuego. Siempre en compañía de mi gente yo me entrego. Al son de la guitarra, de la cumbia yo navego. A una fiesta al sonidero nunca yo me niego. Ci sono i saluti che abbiamo fatto alle, così, ai corridoi del Policlinico Umberto I. Allora, un altro grande abbraccio, ma c'è un altro saluto che vogliamo fare sempre, che sono intanto al mitico grande Eddie, che non è solo un ascoltatore di cumbia, che è un guerriero tutto tondo, un resistente, un militante, chiamatelo come gli pare, comunque un compagno fondamentale. E lo sapete, come sempre, che i miei saluti arrivino fino alla mia amica di Milano, ormai amica. Va bene, noi ritorniamo, niente, a me se telecamere mi agitano. Allora, mettiamo intanto Quantico come base, te ridi, perché mi fai casini e poi ti diverti. No, quello che io volevo fare è, appunto, non solo mandare i saluti, ma anche, appunto, ricordarvi che giovedì prossimo al Villaggio Globale lo Stresalt s'apriranno, un grandissimo concerto, lo saprete, lo Stresalt ormai fanno parte così del panorama cumbiero romano, perché insomma ormai sono, diciamo, la banda romana di cumbia e non solo. Insieme a loro ci sarà l'Onda Tropica Sound System, insomma, quindi ci sarà da prendere appunti e imparare. Insieme all'Onda Tropica Sound System, appunto, Mario Galeano, così ci sarà il Frente Cumbiero, punto, quindi non il Frente Cumbiero Romano a cui ormai vi siete abituati, che veramente insomma siamo mammolette confronto a quello che ascolterete. E poi ci sarà anche noi che così piccoli e da parte moriremo dalla, così, come dire, dalla ansia di prestazione, e affronteremo anche noi un DJ set insieme a questi giganti. Tutto ciò accadrà al Villaggio Globale giovedì prossimo, quindi non perdetevelo assolutamente. Intanto però io vi consiglio anche di visitare il sito di questa piccola grande radio che, come sapete, vive solo del vostro ascolto, ma anche delle vostre sottoscrizioni, di quello che potete, nessuno viene a pretendere, delle iniziative che organizziamo. E lo sapete, si sta avvicinando il mitico 40° compleanno di questa radio. Insomma, un'esperienza così, chissà, chi la capisce sa quanto vale la pena mantenerla, anche perché se siamo qui a parlare di cumbia è forse proprio grazie anche a questa radio, perché altrimenti non so bene chi mi avrebbe dato uno spazio da folle per iniziare questa musica, e invece eccoci qua. Dunque, fosse solo per questo, andate a dare un'occhiata al sito della radio www.ondarossa.info, di modo che se siete fuori dalle nostre frequenze potete anche ascoltarla tramite lo streaming. E allora io tornerei con la Dame Blanche, in particolare col suo primo disco, che è stato per me una rivelazione, perché invece ha proprio sotto questo chissà. La vendetta, la revancia, quella che un giorno ci prenderemo, eh? Beh, torniamo un po' indietro, anche se qui la musica sembra molto tradizionale, invece è qualcosa di molto moderno, di grandi geni che hanno fatto un bellissimo disco di cover. Infatti lo sanno da soli, sono i Mitici del Ritmo, lo Smiticos del Ritmo, e chissà chi la riconosce questa. Va bene, oggi è anche un merengue, eh? Ma sono sempre loro, lo Smitico del Ritmo, se lo possono permettere, eh? We'll be right back. Allora, questa la voglio proprio dedicare a Franico Calavera e la mia amica Claudietta, la reina del fomento Venier. Ultimo brano, direi, in questa strana trasmissione prima della chiusura e di quella che è stata definita la mitica sigla. Le dico, sempre le dico, quando lo pillo por la calle le digo, siempre le digo, cuando lo pillo por la calle le digo, siempre le digo, cuando lo pillo por la calle le digo, siempre le digo. La nostra sigla di chiusura, non basta mai questo tempo. Ma insomma, c'è giovedì prossimo per recuperare, come lo sapete, la Schiena del Sole non va a canna. Dagli 87.9 di Onda Rossa andiamo a chiudere qui, c'è un Mezzeres che vi aspetta. E allora, come sapete, sempre con un saluto particolare a tutti e tutti coloro che non possono godere della propria libertà, noi vi teniamo nel cuore più di tutti e tutte. Alle 18 in punto, la Schiena del Sole vi saluta, ciao, buona cumbia e a giovedì prossimo. Parole e musica dell'America Latina. Los paramilitares desaparecieron a mis dos hijos en el 2 de febrero del año 2003 y hasta la presente no sé dónde estarán. Las madres de Plaza de Mayo tomaron la Catedral Metropolitana para ayunar en protesta por la falta de entrega de fondos estatales destinados a sus proyectos de viviendas populares en la capital argentina. La Esquina del Sol, tutti i giovedì dalle 17 su 87.9 di Radio Onda Rossa.